bella domanda, perché corsi e ricorsi storici probabilmente in forme diverse, chiaramente oggi da una società diciamo industriale e lì una società agricola. Una società agricola chiaramente feudale, ma non molto distante, cioè potrebbe sembrare quando parliamo di queste cose di tornare indietro di chissà di quanti anni, e invece, invece siamo negli anni subito dopo la guerra, dal 45 fino agli anni 65, come ultimo periodo probabilmente di mezzadria, con anche uno sviluppo industriale nella nostra zona che ha determinato un passaggio prima di molte persone nell'edilizia, poi successivamente anche nell'industria. Per noi, almeno per la CGIL di Ascoli, la mezzadria e le lotte mezzadrili sono la nascita anche della Camera del Lavoro o il rafforzamento della Camera del Lavoro. D'altronde la CGIL aveva pochissime, in qualche modo, iscritti, diciamo, nell'edilizia, perché subito dopo la guerra, la ricostruzione, iscritti in un'azienda, diciamo che l'azienda un po' storica della città, la SGL Carbon, che sorge al centro della città, dove oggi ormai stiamo consumando l'ultima procedura di mobilità e la chiusura, quindi sperando di recuperare anche quell'area nello sviluppo diverso, non soltanto urbanistico, per la città. E la Carburo, diciamo che dove si produceva l'acetilene che serviva per illuminare le abitazioni, perché ancora l'energia elettrica non arrivava, e esperienze industriali potevano essere nel settore del bachificio, della lavorazione del baco da seta, che era stata in qualche modo importata, diciamo, anche dal nord Italia, da alcuni imprenditori erano stati collocati dei bachifici anche nella nostra zona. L'attività prevalente era l'attività agricola, non era fatta di grandi appezzamenti di terra, anche i proprietari non erano proprietari latifondisti, non avevano grandi estensioni, avevano, ecco, la media poteva essere intorno ai 8, 9, 10 ettari, però lì viveva una famiglia patriarcale, cioè di solito in questi appezzamenti non viveva soltanto, c'era dal vergaro, diciamo così, dal capo famiglia, i figli, i fratelli, i nipoti, insomma, cioè, c'era una famiglia di solito numerosa. Lì trovate delle foto che Pietro Neno ha ritrovato, che sono bellissime dal punto di vista, credo, anche... Ma oggi sullo stesso territorio... Oggi il territorio chiaramente è cambiato, insomma, per fare, diciamo così, un po' anche velocemente un excursus tra quelle che può essere stata anche, diciamo così, anche le lotte contadine che si sono avute, non ci vogliamo minimamente paragonare a quelle che sono avvenute forse nella Puglia di Vittorio, però sono state importanti, diciamo, in una provincia come quella di Ascoli, quelle che si sono avute negli anni 50 come momento di liberazione anche da questa forma in qualche modo di mezzadrillo, comunque di opposizione, che prima non scattava perché il vergaro in qualche modo era fortemente legato per le sue condizioni, le condizioni di ricatto, c'era stato il fascismo, quindi tutta la normativa, diciamo, anche del rapporto mezzadrile, che nasce dal feudalesimo, insomma, che è antichissima, però ha una sua evoluzione legislativa fino nel 1936, insomma, le leggi che regolano il rapporto di mezzadria. È chiaro che probabilmente finché non arrivano diciamo i giovani che tentano dentro la famiglia a mettere in discussione il capofamiglia, forse dall'esperienza della resistenza, della liberazione, cominciano a mettere in discussione la famiglia, il ruolo del padre, e anche la ribellione probabilmente a questa forma di opposizione, con alcune lotte, insomma, che hanno visto anche persone arrestate, tantissimi di sindacalisti e di contadini che si oppongono in qualche modo a questa forma, le cui condizioni, insomma, uno per rappresentarle, veramente, io vengo da una famiglia mezzadrile, insomma, quindi non dai racconti che mi ha fatto mio padre, insomma, che poi è stato uno tra i primi segretari dei mezzadri, in qualche modo, la gamma del lavoro di Ascoli, probabilmente è vedere le condizioni, insomma, io anche se ho 51 anni, però ricordo benissimo le condizioni, la stalla sotto casa, l'acqua potabile probabilmente che è arrivata negli anni 65-60 nelle famiglie, perché c'era il pozzo, il ruolo della donna nella famiglia agricola. Però ecco, poi aveva alcune cose interessanti, perché la famiglia agricola aveva anche una funzione sociale, dove tutti comunque erano utili, cioè anche le persone, diciamo, disabili o le persone, tutti si rendevano utili, non c'era l'emarginazione, per esempio, nel lavoro, ciò che oggi probabilmente sono uno dei problemi anche di questa società, l'inserimento anche delle persone disabili. Lì in quella famiglia riuscivano tutti in qualche modo a dare un contributo, nessuno si sentiva escluso da questo punto di vista. Poi chiaramente le condizioni, ma anche le condizioni di reddito, non permettevano assolutamente nessuna posizione. Insomma, il fatto dell'istruzione che Pietro richiamava era una bestemmia, cioè guai se il figlio del contadino, beh, insomma, c'era anche, diciamo così, la frode finale, oltre la, diciamo, la beffa, oltre quello della disdetta, molte volte era quello anche del conto economico, del fine contratto, dove si dovevano fare i conti e le stime delle condizioni. Se avevi il figlio che probabilmente era riuscito ad avere la quinta elementare, sapeva un po' di matematica e riusciva a fare anche i conti, altrimenti era in balia della conoscenza della persona più forte, che era in quel caso era scontato che era il datore di lavoro. Insomma, è stata una bella, in qualche modo, credo, anche dal punto di vista, diciamo così, storico, dal punto di vista anche dell'impegno sindacale, in qualche modo, come limitato, chiaramente non abbiamo i numeri del braccio addato, niente forse nemmeno a che vedere con le lotte della Romagna o le, diciamo così, le risaie della zona del Vercellese, però probabilmente in questa particolarità un aspetto importante. È vero, oggi la situazione in qualche modo è cambiata, diciamo anche la Cassa del Mezzogiorno, che era intervenuta su quest'area, aveva portato dentro anche multinazionali. Oggi stiamo pagando lo scotto del post-industriale, cioè nel senso che le multinazionali stanno andando via, rischiamo di avere in qualche modo anche il deserto dal punto di vista industriale, stiamo ripensando a un nuovo modello di sviluppo che riparte anche dall'agricoltura, insomma, quindi c'è quasi un ritorno da un'agricoltura chiaramente diversa. Oggi sono tantissimi gli imprenditori, alcuni probabilmente sono anche qui ad esporre i prodotti della nostra zona, in qualche modo anche con forme diverse anche di agricoltura legata all'agriturismo, di agricoltura legata al biologico. È chiaro che c'è ancora tanto lavoro da fare, perché probabilmente ancora il peso forte è ancora quello anche di una trasformazione dei prodotti agricoli legati, per esempio, nella zona fermana, che adesso è andata abbastanza in crisi, legata alla barbabietola da zucchero e agli zuccherifici che poi stanno chiudendo. La zona invece, diciamo così, un po' più verso Ascoli, la zona di Offida, dove tutto sommato anche l'associazionismo tra i produttori, che vedono contadini ma anche persone giovani che in qualche modo stanno restando nell'agricoltura, perché in qualche modo anche la qualità dei prodotti si stanno cimentando anche, ecco, nella qualità di alcuni che costruiscono reddito e anche un lavoro probabilmente di soddisfazione. Sì, manca l'altra parte della domanda.